Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, qua di fusione fredda, dobbiamo riparlarne, dobbiamo assolutamente riparlarne. Lo sentirete nei titoli, lo facciamo fra qualche secondo. La fredda diventa sempre più calda? Ancora di fusione dobbiamo parlare, perché ci sono novità. Destra e sinistra, ma non nella politica. Una ricerca racconta i gorilla e il loro rapporto con l'uso della mano destra. L'impatto ambientale non conosce confini è un progetto di ricerca oceanografica svolto da 12 studenti provenienti da tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Firenze. 250 famiglie hanno tenuto sotto controllo i propri consumi, applicando contemporaneamente alcune semplici strategie per ridurli. È un'iniziativa del CNR e ogni nucleo familiare ha tagliato i propri consumi del 40%. Maurizio Meris, eccoti qui. Ciao Federico. Fusionista freddista. Freddura, fusionista? Sì. Fusionista. Sì, è arrivata come una freddura nel mondo dell'energia questa notizia. In realtà, cominciamo a dire una cosa, dobbiamo smettere di parlare di fusione fredda, dobbiamo cominciare a parlare di low energy nuclear reaction, cioè reazioni nucleari a bassa energia. Che è un'altra roba. Che è un'altra roba da un punto di vista fisico e anche da un punto di vista professionale, nel senso che il termine fusione fredda ha distrutto un sacco di carriere. Sì, mentre questa, sì, sì. Ancora, questa definizione ancora ne salva qualcuna. Tiene, e questo fatto che distrugge carriere ne parleremo nella seconda parte di questa conversazione che facciamo. Noi siamo qui perché è arrivata la NASA, che voglio dire non è uno degli enti secondari dal punto di vista scientifico-tecnico, e che sta dicendo che questa fusione fredda allora insomma è qualcosa di solido. Eh sì, diciamo che c'è Dennis Bushnell, che è il chief scientist della NASA, uno dei più importanti scienziati della NASA, che ha preso posizione, lui diciamo personalmente, in una intervista rilasciata a AV World, una rivista statunitense, c'è anche un podcast che circola in rete, nella quale intervista afferma non solo che le reazioni nucleari a bassa energia sono quasi certamente il futuro dell'energia, che se vengono sviluppate da un punto di vista commerciale faranno piazza pulita di quasi tutti i concorrenti, o forse addirittura lui dice di tutti di in tutte. Realtà. Ma è molto positivo proprio sull'invenzione di Andrea Rossi, l'energy catalyzer di cui abbiamo parlato, questa sorta di scaldabagno a fusione nucleare. Tu ne hai parlato tanto in Mr. Kiro, ne abbiamo parlato due volte qua in trasmissione, credo che non sia necessario insomma sintetizzare più di tanto, però insomma qui c'è un tubo nel quale entra, com'è la differenza? Entra uno e esce 15? Sì, beh, diciamo che il guadagno è una di quelle informazioni sulle quali non c'è una chiarezza assoluta. Dal punto di vista commerciale loro credo che venderanno un 6, ma si sa che in questi test è stata superata di molto questa soglia, questa moltiplicazione per 6 dell'energia elettrica in ingresso, mentre in uscita abbiamo energia termica, quindi abbiamo proprio una caldaia, una roba che scalda l'acqua al momento. Santo ma cielo. Poi sappiamo bene che una volta che uno ha il calore può produrre vapore, tutto col vapore elettricità, eccetera, eccetera. Va bene, allora la NASA comincia a dire cose, ma tra l'altro scusa, non è che era molto noto che la NASA stesse lavorando, perché loro qui in questa intervista lui dice che è 3 anni che ci lavorano, 4 anni. Ma Bushnell dice che loro hanno cominciato da un po' di tempo a lavorare, tanto è vero, addirittura afferma che hanno fatto dei conti e hanno stabilito che le reazioni nucleari a bassa energia sarebbero molto più efficienti della fissione nucleare per mandare razzi nello spazio, quindi voglio dire qualche conto l'avranno fatto per fare queste affermazioni. Sì, ci stanno lavorando, ma un po' in generale su questo tema si è lavorato nel silenzio, nel senso che molti istituti di ricerca, diciamo che molti ricercatori non ci tenevano a essere identificati come persone che facevano ricerca su questo campo. No, certo. Quindi diciamo in molti casi la ricerca è stata fatta anche con pochi fondi, in situazioni molto secondarie, ma ci sono state anche imprese ed evidentemente anche la NASA che sotto sotto ci ha lavorato. Adesso proprio Bushnell ha spiegato che stanno per partire alla NASA degli esperimenti che dovrebbero confermare una teoria del 2005-2006, una teoria sviluppata da Widom e Larsen. Widom è membro di facoltà alla Northeastern University e Larsen è il proprietario di una piccola azienda a Chicago. E qui viene fuori questa strana situazione per cui molti di questi personaggi che si occupano sono di questa vicenda così, sono sì. un po' borderline dal punto di vista diciamo del posizionamento nella comunità scientifica. Certo. Ma questo esperimento dovrebbe consentire addirittura di, come dire, stabilire una volta per tutte, o falsificare, così funziona la scienza, una ipotesi teorica di come queste reazioni potrebbero funzionare. Ipotesi che è stata fatta appunto da Larsen e Widom. E se vuoi entriamo un pochettino, diciamo, nel dettaglio. E questo sarebbe certamente un passaggio fondamentale. Prima di entrare vorrei spiegare a chi ci ascolta che questa non è una stranezza. Che cosa succede? È successo tante altre volte nella scienza. Cioè, se si parte male e quindi c'è qualcosa che viene buttato nell'arena dei risultati scientifici, ma in modo maldestro, e la fusione fredda è iniziata così, a quel punto che cosa succede? Che se lì dentro in quella cosa nata male, però c'è un seme invece interessante di verità, però insomma dobbiamo capirlo anche in termini umani, della carriera delle persone e il destino personale di chi fa ricerca, cosa succede? Che nessuno se la sente più di andare a lavorare in un territorio dove è estremamente pericoloso, è estremamente facile essere criticato, essere addirittura oggetto di ironia pesante, perché è stato così. E allora cosa succede? Che passano gli anni, quell'idea magari sballata all'inizio però contiene appunto un succo buono, ai bordi appunto, borderline come dicevi tu prima, qualcheduno invece che ha meno problemi accademici, che è un po' strambo, che vuole sfidare le cose, ci lavora, fa fatica, magari anche non azzecca cose buone e poi a un certo momento però arriva. E quindi non dovete sorprendervi che invece improvvisamente venga fuori qualcosa. Io aggiungerei, come dire, una sola cosa. Sono perfettamente d'accordo, c'è questo meccanismo che è anche di tipo psicologico. Io credo che però in questo caso si debba dare un giudizio un pochettino più duro sulla comunità scientifica. Un pochettino più duro. Nel senso che in questi 20 anni, soprattutto negli ultimi 10, comunque dei segnali c'erano stati. C'era di più. C'erano molti gruppi di ricerca che avevano evidentemente ottenuto dei risultati piccoli, però significativi, che andavano assolutamente approfonditi. Sì, questi risultati direi che sono stati abbastanza, insomma, messi da parte. Sì. Ecco. E quando racconteremo probabilmente la storia fino in fondo, si vedrà che effettivamente questa cosa che tu hai detto, insomma, è stata oggetto di meccanismi un po' strani e un po' sospetti. Comunque, insomma, noi non abbiamo ancora messo definitivamente la firma su questa cosa. No, certo. C'è ancora un margine di incertezza che comunque va chiarito. Che va tenuto. Va bene. Oh, qui ci si risente. Eh sì. Ciao, Maurizio. Ciao Federico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dopo, fra un po', Chiara Albicocco viene qui in studio, ma qualche giorno fa, dov'era? Comincio con il dirvi che stava tirando su un'ancora e andar per mare. Siamo nelle acque di fronte al Golfo di La Spezia e siamo a bordo di una delle imbarcazioni che stanno prendendo parte al progetto internazionale di ricerca oceanica L'impatto ambientale non conosce confini. E qui con me ovviamente c'è Emilio Tesi, che è coordinatore di questo progetto. Allora Emilio, prima di raggiungere le imbarcazioni Adriatica, che i nostri ascoltatori conoscono perché è quella di Velisti per caso, di Patrizio Roversi e Susie Bledi, e l'altra imbarcazione che prende parte al progetto, che è Mediterranean Explorer, devi introdurci il mondo che stiamo andando ad esplorare. Tempo fa abbiamo pensato, ormai circa un anno e mezzo fa, di realizzare un programma di, chiamiamolo Science for Peace, o di cooperazione fra popoli del Mediterraneo, e abbiamo pensato che uno strumento eccezionale per riunirli tutti sotto un'unica bandiera fosse proprio il mare, perché proprio il mare accomuna tutti questi popoli che si affacciano. Quindi abbiamo cercato di realizzare un workshop e ci siamo riusciti, che ha visto come partecipanti studenti provenienti un po' da tutto il bacino del Mediterraneo, parlo di Palestina, di Israele, di Turchia, di Grecia, di Libano, di Tunisia, di Italia chiaramente, e quindi niente, si è venuta a verificare questa situazione molto interessante di cooperazione. Gli studenti hanno inizialmente partecipato ad un workshop presso il centro Enea di Santa Teresa e poi successivamente hanno avuto la possibilità di realizzare una ricerca vera e propria che porterà, noi speriamo, a dei risultati concreti nel santuario dei cetacei, che è proprio quella fetta di mare, quel triangolo di mare di fronte a Genova, di fronte alla Spezia. Insomma, i ragazzi mi sono sembrati molto contenti, adesso andiamo a verificare come si trova. E andiamo ad incontrarli, sono 12 ragazzi divisi, possiamo chiamarle così, in due squadre, in due imbarcazioni che sono destinate a due usi diversi, e adesso lo vedremo. Incominciamo a raggiungere Mediterranean Explorer? Sì, Mediterranean Explorer appunto è l'imbarcazione, noi siamo Ocean Team, Environmental Ocean Team, società formata da ricercatori, velisti di primo piano, parlo anche di Giovanni Soldini che è uno degli amministratori di questa società. Andiamo ad incontrare il nostro partner israeliano con il quale abbiamo, diciamo, concepito questa idea, e loro appunto sono venuti partendo da Israele con il Mediterranean Explorer, che è una navetta oceanografica. L'altra ricerca su Adriatica, noi come Ocean Team cerchiamo laddove è possibile di realizzare campagne oceanografiche utilizzando principalmente imbarcazioni a vela. Emilio, ora ci troviamo a bordo di Mediterranean Explorer, ecco l'imbarcazione di cui parlavamo prima, che batte bandiera israeliana, e qui ci troviamo di fronte ad uno degli strumenti principali che serve per la ricerca degli studenti. Che cos'è? Questo strumento è il Free Falling Profiler, serve per effettuare delle misure di turbolenza nell'oceano. La turbolenza è importante perché chiaramente è quella che contribuisce anche alla distribuzione dei nutrienti nella colonna d'acqua. Sostanzialmente questo strumento viene lasciato cadere gentilmente, fatto andare in profondità, e mentre cade acquisisce dei parametri con una frequenza alta di temperatura e salinità. Questo studio è realizzato in collaborazione con il National Oceanography Center di Southampton, che è il più grande centro oceanografico d'Europa e uno dei primi 5 al mondo. E ora saliamo a bordo di Adriatica, appunto una delle barche della spedizione. Ad aspettarmi c'è Roberto Meloni della Ocean Team, che è organizzatrice di questo grosso progetto. Dunque, ci troviamo a bordo di Adriatica, a bordo ci sono 6 dei 12 studenti che partecipano al progetto, e che cosa sono chiamati a fare qui sulla barca? Allora, qua sulla barca devono imparare sostanzialmente. Noi abbiamo già fatto, qualcuno forse te l'ha già detto, abbiamo fatto una settimana di scuola a terra, che è servita soprattutto per cercare di fare creare un linguaggio comune. Questi fanno un'esperienza su questa barca e poi adesso cambiamo, passiamo su quell'altra e fanno un'esperienza sull'altra barca. Allora, questa è stata dedicata quasi esclusivamente... Scusi, intanto c'è qualcuno che si tuffa in mare, ma questo è ovviamente fa parte del contratto, no? Non so se fa parte del contratto, però è piacevole perché oggi c'è molto caldo e insieme alle balene possiamo andarci anche noi un pochino in acqua. Niente, dicevo, questa è quasi esclusivamente dedicata all'ascolto dei cetacei. E possiamo dire che abbiamo appena avvistato una balenottera comune, possiamo dirlo? Possiamo dire che ci è venuta a trovare, forse è stata attratta da questa concentrazione di barche. Perché i ragazzi oggi devono trasbordare, cioè fare il cambio dell'equipaggiamento. Questo è il punto che era stato stabilito per fare il cambio di equipaggio. Quindi i 6 ragazzi che sono a bordo del Mediterranean Explorer vengono qua, e i ragazzi che erano qua passano al Mediterranean Explorer. Quindi là fanno un'esperienza completamente diversa, di una ricerca completamente diversa. E per capire però che strumento ci ha montato a bordo di Adriatica, insomma, abbiamo qua i ricercatori dell'Università di Pavia, del Centro di Bioacustica di Pavia, che ci spiegano, Claudio e Giovanni, che cosa hanno montato, che tipo di strumento Adriatica si porta dietro. Claudio. Beh, noi ci occupiamo di studiare i mammiferi marini e lo facciamo principalmente utilizzando l'acustica. L'acustica, cioè le voci di questi animali. Per registrare e ascoltare le voci di questi animali, noi ci trainiamo un idrofono, che è praticamente una serie di microfoni subacquei che ci permettono appunto a bordo di sentire cosa succede sott'acqua. E Giovanni, in questi 2 giorni che è iniziato il progetto, che cosa avete sentito e che cosa sperate di sentire anche? In questi 2 giorni abbiamo sentito delfini, soprattutto durante la notte, emettere click di ecolocalizzazione, che è un'attività. E ci devi spiegare cosa sono i click? Sono brevissimi suoni impulsivi, che suonano un po' così, che sono legati più che altro all'attività di predazione, quindi stavano mangiando molto probabilmente. Questa mattina abbiamo sentito 2 capodogli, Ci attendiamo e speriamo di sentire anche qualche zifio che in questa zona dovrebbe essere presente. Beh, Claudio, oltre a sentire le loro voci, penso che la parte fondamentale sia anche l'avvistamento. Insomma, i ragazzi sono tenuti ad essere attenti osservatori del mare. Beh certo, intanto l'acustica è un settore molto particolare, specialistico, per cui bisogna avere una grossa preparazione, ma è importantissimo sempre osservare anche quello che fanno gli animali, perché noi così riusciamo ad associare ai suoni comportamenti che osserviamo in superficie, anche se in superficie poi questi animali ci stanno poco e fanno poco. Quindi è importante stare sempre in osservazione, ci sono turni d'osservazione con i binocoli, in modo da poter anche associare a un particolare animale il suo suono. E allora andiamo sotto coperta a sentire questi suoni che avete registrato. Ecco, ora siamo sotto coperta, sentite i suoni che hanno registrato. Claudio, che tipo di animali emette questo suono? Questi sono i capodogli, che sono i cetacei, fra i cetacei più grossi che abbiamo in Mediterraneo e sono diffusi in tutto il mondo. In particolare questi sono i click di ecolocalizzazione che loro usano durante le immersioni profonde per cercare i calamari che sono la loro preda. In questo contesto c'è anche una vocalizzazione particolare che noi chiamiamo coda, che è una serie di click che ha un significato regionale. Cioè nelle varie parti del mondo questi animali parlano una sorta di dialetto. E fra questi click c'è anche un clang, un altro suono particolare che fanno i grossi maschi per dire alle femmine quanto sono grossi e forti. Quindi ci sono diversi tipi di vocalizzazione a seconda del messaggio che insomma vogliono trasmettere ai consimili. E tutti i cetacei emettono questo tipo di vocalizzazione, voi siete in grado di registrare? Questi click di ecolocalizzazione, che sono dei suoni che possiamo udire anche noi, li fanno solo gli odontoceti, cioè i cetacei con i denti, perché sono animali che vanno a predare singole prede, appunto, e hanno bisogno di trovarle. Mentre le grosse balene che hanno i fanoni, come quella che abbiamo visto qui fuori, non fanno, per quel che ne sappiamo, suoni di ecolocalizzazione, perché in genere vanno in mare, spalancano la bocca, inghiottono enormi quantità di gamberetti o di pesciolini e si nutrono di quelli, quindi non hanno esigenza di trovare il singolo calamaro o il singolo pesce. Sono suoni a bassissima frequenza che noi non possiamo registrare con lo strumento che abbiamo a bordo, ma ci sono degli strumenti particolari per registrarlo, perché il solo rumore dello strumento che viene trascinato in mare copre il rumore di queste balene che noi non possiamo udire. Poi immagino che in un mare come il Mar Ligure la registrazione dei suoni sottomarini non sia prettamente solo di origine animale, cioè ci saranno dei disturbi anche, dei rumori umani. Sì, il Mar Ligure è uno dei mari più rumorosi del mondo. Siamo stati poco tempo fa in pieno Oceano Atlantico, sotto le Azzorre, e c'era un silenzio incredibile sott'acqua. Qui in Mediterraneo la storia è molto diversa, perché è un mare molto trafficato, le coste sono molto popolate, quindi c'è un intenso uso del mare che disturba molto questi animali. E diciamo che la vostra ricerca serve anche a questo, per capire insomma che tipo di impatto ha l'uomo nel mare. Negli ultimi anni ci siamo occupati soprattutto di questo, cioè cercare di capire che suoni danno fastidio a che animale, perché ci sono alcuni suoni che danno fastidio, addirittura possono provocare la morte di singoli animali, mentre il rumore diffuso di fondo invece va a coprire in genere le voci di questi animali e quindi è altrettanto dannoso anche se non uccide il singolo animale. E dopo una giornata di duro lavoro, i ricercatori e gli organizzatori si rilassano così. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, c'è un sacco di CO2, questo lo sappiamo, no? Bene, cioè no, male. E comunque, come stiamo a idee per non averne così tanta di CO2? Una buona, originale, ve la racconta Barbara Gallavotti. Sapete quanta CO2 producete? E quanta ne potreste risparmiare? E sapete come fare a risparmiarla? In effetti, per risparmiare energia è importante conoscere i propri consumi, oltre a qualche buona pratica, trucco, diciamo. Tutto ruota intorno ad alcune informazioni chiave e si è appena concluso il progetto della comunità europea RACES, promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con l'Istituto di Biometeorologia del CNR. Scopo del progetto è stato proprio capire come informare i cittadini e come le informazioni possono avere un effetto sulle emissioni di anidride carbonica. Per un anno, 250 famiglie di 5 città hanno tenuto sotto controllo i propri comportamenti e qualcuno è riuscito a tagliare fino a oltre della metà le emissioni di anidride carbonica. Abbiamo qui con noi Valentina Grasso del CNR, che ha coordinato la campagna di comunicazione, e Mauro Trentin, che ha battuto ogni record fra le famiglie in esame, tagliando le proprie emissioni di circa il 40%. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Cerchiamo di capire intanto come si svolgeva questa iniziativa. Lo chiedo a Valentina Grasso. Allora, come ha detto lei, questo monitoraggio dei consumi si è svolto all'interno di un progetto di comunicazione che ha coinvolto 5 città. Quindi oltre a Firenze ci sono state anche Trento, Modena, Bari e Potenza. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alle 250 famiglie di raccogliere le bollette dei consumi domestici di cosa? Di elettricità, di riscaldamento e di controllare i chilometri che avevano fatto in un anno tipo che per noi è stato il 2008. Dopodiché abbiamo cominciato il monitoraggio dei consumi a partire dal novembre del 2009 fino a ottobre-novembre 2010. E cosa dovevano fare le famiglie? Semplicemente all'inizio del monitoraggio controllare i contatori, quindi delle auto, i contatori della luce, del gas, e poi effettuare almeno un monitoraggio a metà del progetto, quindi verso maggio 2010, e uno alla fine, a conclusione, per vedere com'era andata. Ovviamente durante questo percorso noi li abbiamo invitati anche a fare più rilevazioni, c'erano delle gare mensili fra le varie famiglie in modo da fare dei piccoli campioni, diciamo, durante il corso del progetto, e quindi diverse famiglie, oltre a un terzo, ha fatto anche un monitoraggio al mese, controllando quindi come andavano e come anche il loro impegno nella riduzione, diciamo, era efficace o meno. Ecco, voi avete dato anche qualche consiglio, immagino, su come comportarsi. Esatto, sì, diciamo, è stato fatto un vero e proprio calendario, si chiamava il calendario delle stagioni del risparmio, dove mese per mese venivano indicati proprio i consigli da effettuare in casa o anche sulla mobilità, insomma, in ogni stagione, e sollecitava anche a inserire appunto i propri dati. E poi sono stati organizzati anche dei laboratori, degli incontri nelle varie città, a Firenze ad esempio la cosa era coordinata da un architetto, l'architetto Antenore, che è un esperto di risparmio energetico, che ha fatto un laboratorio sul risparmio domestico che ha avuto molto seguito, in cui i cittadini dovevano proprio rispondere a delle domande sulla loro casa per capire se conoscevano anche la propria abitazione, se era isolata, non era isolata, che tipo di consumi avevano, come era esposta, e queste piccole domande. Tutti i dati che sono accessibili dal vostro sito, che ricordo che è collegato al sito della nostra trasmissione www.moebiusonline.eu. Il nostro secondo ospite è Mauro Trentin, di Trento, come dice il cognome, fa parte della famiglia che più ha ridotto il suo consumo di CO2. L'ha ridotto, dicevamo, circa del 40%, avrebbe potuto raggiungere il 70% se il clima l'avesse aiutato, perché il secondo anno è stato più freddo del primo e quindi necessariamente le spese sono state superiori. Mauro Trentin, come ha fatto? Ma diciamo che in quel periodo lì, a cavallo delle rilevazioni che abbiamo fatto, abbiamo anche installato dei pannelli fotovoltaici, e questi praticamente ci hanno molto aiutato, nel senso che i nostri consumi di energia elettrica erano tranquillamente prodotti dall'impianto stesso. Addirittura noi avevamo un surplus di produzione di energia elettrica, quindi abbiamo azzerato i nostri consumi di energia elettrica, e questo ha inciso parecchio. E uno degli altri fatti, c'è stato da parte mia, insomma, un utilizzo del mezzo pubblico maggiore rispetto al solito. Poi mi diceva anche, avete utilizzato la stufa per il riscaldamento. Sì, noi diciamo che il riscaldamento nella casa è fatto con una stufa a legna. Però in ogni caso anche, diciamo che i consumi della legna venivano trasformati in gas, avevamo una tabella di conversione e quindi anche la legna non era considerata, diciamo, un'energia pulita, era sempre considerata una fonte anche quella di emissioni di CO2, quindi influiva anche quello sulle emissioni, però abbiamo tenuto forse i gradi all'interno della casa più bassi del solito, probabilmente. Comunque siamo stati un po' più attenti, in sostanza. Ma perché? Perché tutto questo impegno? È stata una preoccupazione per l'ambiente in primo luogo, un desiderio di consumare meno energia per motivi anche di risparmio o di consumi? Perché? Ma diciamo, per entrambe le cose, le due cose vanno un po' di pari passo, perché in sostanza un'emissione minore di CO2 vuol dire anche un risparmio sostanzialmente economico, perché se si utilizza meno la macchina, se in casa si tengono meno gradi, quello influisce sia sulle emissioni che sul portafoglio, insomma. Un risparmio che quindi lei ha percepito in maniera diretta? Sì, sostanzialmente sì, perché c'è stato un risparmio anche economico, insomma, da un certo punto di vista, sicuramente, insomma. Valentina Grasso, sono stati tutti così bravi i vostri 250 volontari? Beh, non tutti, non tutti, però la cosa interessante è questa, appunto, che si possono individuare i molto bravi e sono soprattutto quelli che hanno fatto molte rilevazioni. Come lei diceva all'inizio, si evidenzia che chi ha controllato di più il contatore è riuscito a risparmiare di più, banalmente, che sembra una cosa ovvia, ma tanto ovvia non è. E poi c'è una fascia di persone che non erano già particolarmente attenti o non erano ambientalisti convinti, ma erano persone normali che si vede appunto dai dati, anche parlando con le persone, che si sono applicati in maniera umana, fra virgolette, cioè hanno rinunciato a piccole cose o si sono impegnati in comportamenti così semplici, e a quell'ora magari non hanno ridotto così tanto come il nostro Trentin vincitore, però hanno comunque ridotto sul 10-15%, quindi con piccole azioni un po' si risparmia. Ecco, per cose più importanti poi bisogna ricorrere a interventi strutturali come il fotovoltaico, oppure a intervenire sull'abitazione proprio. Ecco, appunto, Trentin ha fatto un intervento abbastanza massiccio, che è quello del fotovoltaico. Se lei dovesse individuare gli interventi più semplici che rendono di più, me ne direbbe un paio? Ma diciamo che la mobilità, che è quello che incide di più, possiamo dire che facendo 100 le emissioni che derivano dal riscaldamento, dal consumo di elettricità, e quello dell'uso dell'auto, beh, quello dell'auto è oltre il 50%, ovviamente. Quindi rinunciare anche solo una volta alla settimana all'uso dell'auto, dove è possibile, sicuramente paga da un punto di vista di riduzione delle emissioni. E poi, per quanto riguarda l'abitazione, beh, se ormai abbiamo già sostituito tutte le lampadine, che quello ormai l'abbiamo abbastanza imparato tutti, ecco, il riscaldamento, ad esempio, riducendo di un grado il riscaldamento, per ogni grado ridotto si riducono di circa 7-8% le emissioni di CO2. Quindi magari quando sentiamo qualche brivido in più, forse una felpa mettiamo in più è più economica. Sì. Prima di iniziare la campagna di comunicazione, voi avete fatto un'indagine per capire come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici. Cosa avete scoperto? Sì, abbiamo fatto questa indagine in tutte e 5 le città, con pubblici diversi, e cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la tematica del cambiamento del clima per tutte le persone si sovrappone spesso a quella dell'ambiente in genere, e anche dell'inquinamento, per cui c'è un po' diciamo di confusione su questo aspetto. L'altro dato interessante è che mentre la maggior parte si dice comunque preoccupato del cambiamento del clima, poi in realtà non sa bene identificare quali sono gli impatti sul proprio territorio, cioè manca forse un po' un'informazione puntuale su quali sono le declinazioni, cioè i diversi impatti, no, di questo cambiamento climatico, che si manifesta in maniera diversa a livello globale, appunto. E l'altro dato è un po' il tema della responsabilità, cioè che se si dice, beh, io posso far qualcosa, ma prima di tutto dovrebbero far qualcosa le autorità, ecco, queste autorità per le città, diciamo, del centro-nord sono identificate con chi? Con le amministrazioni locali, cioè il cittadino si aspetta che sia il suo comune, no, o la sua regione, insomma, a far qualcosa, mentre per il sud Italia, quando si dice mi aspetto che l'autorità faccia qualcosa, si pensa molto spesso allo Stato. Mentre invece allora noi, poi è il singolo quello che può incidere di più. Mentre il singolo è importante e diciamo che il singolo trova una maggior motivazione quando vede che sul suo territorio non è da solo, per cui ad esempio emergeva dalla ricerca che pochi sapevano quello che già era stato fatto, si faceva sul proprio territorio. Ecco perché noi abbiamo fatto questa indagine, proprio per costruire poi i materiali della campagna informativa, e nella mostra appunto che si chiama Cambia il clima in città e che è visibile anche online, noi per ogni città abbiamo identificato da un lato gli impatti locali del fenomeno, quindi si parlava di scioglimento dei ghiacciai banalmente, insomma, però in Trentino, e magari invece di siccità e desertificazione in Basilicata, e poi si evidenziavano anche per ogni singolo territorio quelle che erano già le buone azioni, le buone pratiche, le cose già realizzate dalle amministrazioni locali ma anche dalle imprese, in modo che il singolo non si senta quello che è l'unico, no, che sta agendo, ma si senta parte di una comunità che insieme si muove e agisce verso una maggior sostenibilità ambientale. Bene, grazie Valentina Grasso. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera Mauro Trentin. Grazie, buonasera a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Com'era il mare, Chiara? Ah, calmissimo, un olio bellissimo. Avete incontrato balene? Sì, abbiamo incontrato delfini e balenottere. E gorilla? Gorilla no, quelli non li abbiamo avvistati, mancavano. Stranamente. Sai cosa ha combinato Giorgio Valortigana? Mentre ero via? Sì. No, non ne ho idea. Giorgio Valortigana è un grande neuroscienziato e ha fatto braccio di ferro con i gorilla, forse sono un po' esagerati. Sì, con i gorilla. Lui li studia e si è sentito anche in dovere di provarne la forza. Ha giocato con tutte e due le braccia e ha perso con entrambe. Giorgio Valortigana è qui con noi questa sera. Buonasera Valortigana. Buonasera. Allora lei ha perso con entrambe i braccia, ma anche il gorilla giocava con tutte e due. Sì, faccio un mestiere pericoloso. Vabbè, dai. Cosa avete scoperto allora sul gorilla per quanto riguarda lei, il suo essere destrimane più o meno? Abbiamo provato con dei metodi un po' sofisticati, adesso che ci sono, di analisi delle immagini in maniera molto precisa e obiettiva, a vedere se ci sono preferenze nell'uso della mano, zampa, destra o sinistra, a seconda del tipo di oggetto che l'animale va a manipolare, distinguendo tra oggetti animati e non animati. Quindi gli oggetti inanimati sono tipicamente gli oggetti su cui si esercita una funzione di strumento, le cose che ci sono nella gabbia, la tazza del cibo, eccetera, e gli oggetti animati sono tipicamente invece conspecifici, che vengono toccati, abbracciati, oppure in relazione alle funzioni, diciamo così, di genitore o di parente e così via. E quello che abbiamo trovato in buona sostanza è che c'è una preferenza per l'uso della mano destra, simile, molto consistente anche a quella che noi osserviamo nella nostra specie quando l'azione è diretta verso gli oggetti inanimati, ma non così quando l'azione è diretta verso gli oggetti animati. C'è una corrispondenza tra l'utilizzo della mano destra per fare lavori abituali con invece quella che è la nostra parte che attiviamo cerebrale, sia per quel che riguarda ovviamente la nostra specie, sia per i gorilla. Lei è un neuroscienziato del centro mente cervello dell'Università di Trento e quindi ecco, quello che volevate scoprire era quello, cioè che parte del cervello fosse attivata nel momento in cui utilizziamo la destra o la sinistra. Esatto, questo significa che come nella nostra specie è l'emisfero sinistro che è, come dire, in controllo di funzioni come la manipolazione di oggetti attraverso l'uso preferenziale della mano destra. Non era detto, Valortigara, che anche in animali così vicini a noi ci fosse questa identità? L'evidenza, diciamo così, la letteratura sui primati non umani è in questo momento molto confusa, molto caotica. Ci sono dati che suggeriscono, per esempio, negli scimpanzé la presenza di una preferenza per la mano destra in certi compiti, ma non vengono sempre duplicati e inoltre dipendono dal fatto che vengano studiati animali in cattività oppure in condizioni seminaturalistiche. Quindi c'è molto, molto dibattito all'interno della comunità scientifica. Una delle ragioni per queste incongruenze potrebbe essere proprio relativa al fatto che spesso non c'è una distinzione chiara relativamente all'oggetto nei confronti del quale viene eseguita l'azione. E come mai, una piccola puntualizzazione, noi esseri umani siamo al 90% destrimani, invece per i gorilla non è così? Forse non è una spiegazione, non c'è una spiegazione evolutiva in questo. Ma dunque, ci sono vari ordini di problemi qua. Una è relativa al fatto se davvero la nostra specie mostri una lateralizzazione più spiccata rispetto ai nostri parenti più prossimi. Non sono sicuro che le evidenze siano convincenti, perché bisognerebbe essere anche sicuri che le azioni manuali vengano svolte con la stessa frequenza o con la stessa destrezza in specie diverse. Le faccio un esempio: noi anni fa avevamo studiato l'uso preferenziale delle zampe nei rospi e avevamo trovato che c'è una preferenza a livello di popolazione per l'uso della zampa destra durante le sequenze di foraggiamento, quando mangiano e si aiutano un po' con una zampa per pulirsi la bocca o per spingere la larva dentro la bocca. Quindi la direzione è simile a quella che noi osserviamo nei primati e nell'uomo, però la preferenza a livello di popolazione era poco sopra il 50%, attorno al 60% circa. Era significativa dal punto di vista statistico, ma molto piccola rispetto a quella umana. Però è anche vero che l'uso delle zampe che manifestano i rospi è molto modesto rispetto alle abilità e alla destrezza manuale della nostra specie. Se noi andiamo a vedere i dati per animali anche molto distanti fileticamente, che però manifestano una notevole destrezza, per esempio i pappagalli, nei pappagalli è ben documentato che c'è un uso preferenziale della zampa sinistra per tenere il cibo, mentre il becco manipola e agisce sull'oggetto che la zampa tiene, con percentuali che si aggirano tra il 99 e il 100%. Quindi quasi tutti. Addirittura più forte quindi di quella che noi osserviamo nella nostra specie, a parte la direzione che non può essere confrontata perché l'organo manipolativo non è la mano destra, diciamo così, che è un'ala, ma è il becco di fatto. Però la funzione di supporto che viene spesso svolta dalla mano sinistra, per esempio, nella nostra specie, mentre la destra manipola e fa cose sull'oggetto che viene tenuto, è molto simile. Il vostro studio, insomma, confermerebbe questa ipotesi per cui la lateralizzazione del cervello, cioè proprio questa organizzazione del cervello mano destra, lobo sinistro, sia anche strettamente collegata con il linguaggio, invece, lo sviluppo del linguaggio. Sì, questa è una, diciamo così, speculazione, però secondo me è molto interessante. Il punto è questo: noi sappiamo che ci sono aree del cervello che sono implicate nella nostra specie nella funzione linguistica, come per esempio l'area di Broca, che hanno degli omologhi, cioè degli equivalenti, nei primati, i quali però non parlano, quindi quelle aree come l'area di Broca non servono funzioni linguistiche. Ma quello che è interessante è che i dati di neuroimaging, sia nella nostra specie che nei primati, suggeriscono che queste aree vengono attivate, per esempio, nell'uomo, sia quando si ascolta il linguaggio parlato, sia quando si fa il cosiddetto tool using, cioè quando si usano strumenti. Allora l'idea è che, siccome l'uso, le sequenze motorie che sono richieste durante l'uso degli strumenti sono una specie di grammatica elementare, cioè si tratta di mettere in ordine temporale delle sequenze di azioni, forse quelle aree dell'emisfero sinistro che erano già pronte, predisposte per queste funzioni, sono poi diventate quelle che sono state utilizzate nella nostra specie per il linguaggio, perché anche il linguaggio ha questa caratteristica dell'ordinamento nel tempo di sequenze di azioni motorie, che sono in questo caso quelle relative alla fonazione, ovviamente. Che cosa ne pensa lei di quanto si afferma ogni tanto, si cerca di ragionare sulla possibilità appunto che queste aree addette al linguaggio che sono presenti nei primati, quelli anche più evoluti come gorilla, potrebbero effettivamente col tempo svilupparsi in modo tale da dare un linguaggio anche a questi animali? Ah, beh, come dire, di che cosa succederà sul lungo periodo nella storia evolutiva? Noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo prevedere. Certo è qualche cosa che è accaduto, almeno in una specie di primati, la nostra. Forse più che immaginare delle variazioni spontanee per l'evoluzione biologica, che sono totalmente imprevedibili, quello che non sarebbe del tutto irragionevole immaginare è che mano a mano che le nostre conoscenze procederanno e avremo un'idea di quali meccanismi e di quali geni soprattutto sono implicati nella differenza così importante e fondamentale per quello che riguarda le capacità linguistiche tra noi e i nostri parenti più prossimi, beh, allora a quel punto, in linea di principio, potremmo anche immaginare azioni specifiche dal punto di vista genetico in questo senso. Il gorilla ad esempio non ha dei, chiamiamolo linguaggio, però non ha dei segni, delle sonorità che ovviamente magari noi non capiamo, che però i conspecifici capiscono. Certo, sì, ci sono molti studi in realtà sulle capacità comunicative negli animali, sia nei primati che in altre specie, e sono per certi aspetti sofisticate e sono per certi aspetti non ancora interamente comprese, però c'è abbastanza convergenza tra gli studiosi su un punto, e cioè per quanto sofisticate queste capacità non sembrano mancare dell'aspetto fondamentale del linguaggio umano, e cioè della potenziale infinita creatività. Per esempio, non c'è dubbio che varie specie di primati posseggono dei segnali spesso acustici con valore referenziale, che assomigliano un pochino alle parole, per intenderci, no? I cercopitechi grigio-verdi, che sono delle scimmie che vivono in Africa, sì, hanno dei suoni specifici per indicare il predatore aereo, per esempio il predatore terrestre. Quando gli animali lo sentono si comportano di conseguenza. Però il linguaggio umano ha qualcosa di più e di diverso, e cioè la possibilità di combinare le parole secondo un certo ordine per convogliare significati totalmente diversi, e anche la capacità di inventare parole che non corrispondono a nessun oggetto, a nessun referente là fuori, ma che hanno soltanto una funzione grammaticale, come perché, e, quando, dove, eccetera. Ecco, non c'è, o perlomeno non sono stati osservati fino adesso, equivalenti di questo genere nei sistemi di comunicazione delle altre specie. Grazie Valor di Gara, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. In conclusione di questa puntata vi dico due cose. Una riguarda lo sponsor della nostra trasmissione, cioè la Fondazione Sigma Tau, sponsor da molto tempo. Claudio Cavazza, il fondatore della Sigma Tau, casa farmaceutica di cui era amministratore delegato, ci ha lasciati 10 giorni fa. Claudio Cavazza è stato anche l'ispiratore della Fondazione, una istituzione che, lo dico senza alcun timore di sembrare appiattito sugli interessi di uno sponsor, ha svolto da più di 20 anni un ruolo fondamentale nella cultura scientifica del nostro paese, finanziando tantissime iniziative in tante direzioni e sempre con una correttezza estrema. Forse vi sarete accorti, per esempio, che nelle trasmissioni di Mebius non si parla mai di terapie farmacologiche, di patologie che possono essere curate con specifici farmaci, non abbiamo mai medici che consigliano cure. Questa attenzione nasce da una richiesta precisa della Fondazione che, essendo la fondazione di una casa farmaceutica, ha voluto sempre evitare ogni conflitto di interesse. Ora, negli ultimi secondi di trasmissione, vi ricordo qualcosa che già la volta scorsa vi abbiamo segnalato. Mebius sta partecipando a un progetto europeo che vuole indagare quale sia la percezione da parte del largo pubblico, la percezione delle nanotecnologie. Sono una grande rivoluzione tecnologica imminente, cerchiamo di capire che cosa oggi se ne sa. Questo per mettere in campo una comunicazione più corretta ed efficace. Un primo passo dunque è capire. Se andate alla home page di Mebius troverete un riquadro con il nome Nano Channels, è il nome appunto del progetto europeo di cui vi dicevo poco fa. Cliccate e potrete accedere a un questionario. Compilatelo, è utile, serve a creare un rapporto migliore e più corretto fra innovazione e pubblico. Buona settimana a tutti e a tutte, ci sentiamo fra 7 giorni.